Buonasera da Maurizio Melis. Il principale collo di bottiglia che si frappone tra noi e la possibilità di realizzare un sistema energetico, almeno in gran parte, affidato a sole e vento, è la nostra attuale incapacità di immagazzinare energia in modo efficiente e a costi contenuti. Infatti, come abbiamo visto tante volte, queste fonti sono discontinue e perciò l'unico modo di avere energia sempre a disposizione è accumularla, e per poterlo fare su larga scala servono batterie più potenti e soprattutto molto più economiche delle attuali. Ebbene, all'Università di Tor Vergata, con il contributo della Fondazione Kessler, è stata messa a punto una tecnologia inventata dall'Università americana di Harvard, un nuovo tipo di batterie che, pensate un po', sono basate su un estratto di rabarbaro. Ci facciamo spiegare tutto da Silvia Licoccia, che è professore di chimica e direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell'Università di Tor Vergata. Buonasera Licoccia. Buonasera. Senta, allora, intanto diciamo subito che siamo davanti a un progetto in fase avanzata, possiamo dire così. Sì, la tecnologia c'è, quello che stiamo studiando adesso è come trasformare questa tecnologia dal livello di laboratorio, dove si producono potenze dell'ordine del watt, a potenze dell'ordine delle decine di kilowatt, in modo che possa essere applicata industrialmente. C'è da dire che la tecnologia delle batterie a flusso su cui ci basiamo è in realtà una tecnologia sviluppata a livello industriale, però utilizza delle sostanze diverse e quindi componenti diversi, in genere costosi e ambientalmente dannosi. E qui veniamo alla questione del rabarbaro, appunto, che così adesso ci spiega. Allora, in realtà non è un estratto di rabarbaro, nella batteria ci sono degli elettroliti e uno di questi elettroliti è un derivato dell'antrachinone. Gli antrachinone sono dei pigmenti colorati che si trovano in numerose piante, sì, e hanno proprietà anche mediche. Farmacologiche. Farmacologiche, esatto, sì, insomma. L'immagine del rabarbaro era una cosa pittorica per far capire che sono delle sostanze che esistono in natura, che vengono utilizzate. Sì, che non vuol dire che siano del tutto inerti o innocue, anzi, queste addirittura hanno proprietà farmacologiche, però sono molto meno problematiche di quelle che andrebbero a sostituire. D'altro canto, l'altro elettrolita, se lei pensa, sì, che si potrebbe cercare di usare, attualmente si utilizza una soluzione di bromo e acido bromidrico che hanno dei problemi ambientali, ma lo sviluppo futuro, già provato a livello di laboratorio e sviluppato anche questo nell'Università di Harvard, è quello di usare una sostanza che si chiama potassio ferrocianuro, che farebbe sembrare che una roba velenosissima, invece non lo è. In realtà è un additivo alimentare, viene usato in campo enologico per far precipitare il ferro in eccesso nel vino, tanto per darle un'idea, insomma. D'accordo. Ecco, queste batterie, al di là dei componenti e dell'utilizzo di queste sostanze di derivazione, diciamo, biologica, c'è un altro aspetto significativo. Lei ci ha parlato di queste batterie a flusso, ci ricorda che cosa sono e perché sono considerate rilevanti? Sostanzialmente una batteria a flusso, un po' come anche le celle a combustibile che ormai vengono utilizzate in diversi dispositivi, anche nelle automobili, sono delle batterie in cui le prestazioni non sono legate a una quantità di reagenti immagazzinati e chiusi dentro la batteria, ma continuano a funzionare finché gli si fornisce quello che potremmo chiamare in un certo senso carburante, cioè i reagenti. Esatto. E quindi in particolare in queste batterie la potenza, cioè l'energia che si ottiene, dipende dalla quantità di elettrolita, per cui di questo posso liquido immaginare, come già è, delle vasche molto grandi che contengono gli elettroliti, e questo mi potrebbe permettere di avere importanti quantità di energia. Ecco, da questo punto di vista, questa tecnologia su cui state lavorando, quindi magari è voluminosa, cosa non molto importante per le applicazioni statiche, su un'automobile non andrebbe bene, è voluminosa, ma poi per il resto, ecco, se pensiamo all'efficienza con cui si caricano e scaricano queste batterie, ecco, è sullo stesso livello delle tecnologie con cui andrà a competere? Assolutamente sì, anzi speriamo che l'analisi di costi che sarà fatta sembrerebbe far pensare che i costi si possano abbassare. Questo è il business plan che abbiamo proposto. Sì, che dice quanto, di quanto, che è un numero significativo, si pensa di poter scendere? Direi un 30% forse. Discendere al 30% dei costi attuali. Forse qualcosa di più adesso, i numeri questi della sono sempre, parte economica, certo, non sono proprio... Sono gli auspici che un po' si fanno anche in questi business plan, però la speranza di rispettarli, magari anche solo di andarci vicini, sarebbe un grande risultato. Comunque le prestazioni possono essere molto interessanti. Lei pensa che queste batterie hanno una ritenzione di capacità maggiore del 99%, quindi possono essere riciclate, cioè caricate e scaricate anche numerose volte, insomma, il che questo è un elemento interessante. E beh, direi assolutamente fondamentale. Va bene, insomma, allora in bocca al lupo per il progetto in questione e anche per tutte le altre vostre attività limitrofe. Va bene, grazie Silvia mille. Licoccia. Buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.